Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il decreto legislativo approvato settimana scorsa da governo ha letteralmente gettato nel panico tutti gli operatori del fotovoltaico. Parliamo del decreto rinnovabili, il quale infatti non definisce il nuovo sistema di incentivazione per il fotovoltaico, molto atteso, e rimanda semplicemente tutto al 30 aprile, mentre l'attuale conto energia verrà meno non appena raggiunta la soglia degli 8.000 megawatt installati, soglia alla quale però siamo dannatamente vicini. Potrebbe essere una cosa del mese prossimo, tra 2 o 3 mesi al massimo. Risultato? Il blocco del settore, la paura per gli investimenti già avviati, il timore che questo quarto conto energia, quando finalmente sarà definito, cioè entro il 30 aprile, appunto, possa contenere sorprese molto amare. Ma c'è anche chi lo spera questo, come alcuni operatori del solare termico, che da anni è effettivamente reso marginale dagli incentivi molto generosi al fotovoltaico, anche troppo, come abbiamo più volte sottolineato qui a Mr. Kilowatt. Però è questo il modo di rimediare a un errore di valutazione, o così si rischia di farne uno ancora più grosso? Ne parliamo con Marco Pigni, che è direttore di APER, l'associazione produttori energia rinnovabile, che abbiamo sentito proprio settimana scorsa quando il decreto non era ancora stato promulgato, ma ne parliamo anche con Dario Di Santo, che è direttore di FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia. Buonasera Marco Pigni. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Dario Di Santo. Buonasera a tutti. Pigni, cominciamo da un elenco forse anche un po' drammatico, ecco, di dichiarazioni che sono venute fuori dalle varie associazioni di categoria coinvolte sul fotovoltaico. Abbiamo che Asso Energie Future, tramite Massimo Sapienza, dice non si può giocare con la vita di 150.000 lavoratori. Beh, forse qui è un po' esagerato. Secondo Gianni Chianetta, presidente di Asso Solare, siamo di fronte a un blocco dei cantieri, e ricorda che in fondo gli italiani pagano l'1,6% della bolletta elettrica per il fotovoltaico contro l'8% dei tedeschi. Il GIFI denuncia un blocco di investimenti per i prossimi mesi di oltre 40 miliardi di euro. Insomma, sembra veramente una situazione drammatica, generata da un problema che è fondamentalmente quello dell'incertezza, se ho capito bene. Pigni. Certo, il problema principale è che questo nuovo decreto lascia il settore delle rinnovabili totalmente nell'incertezza. Si annunciano delle revisioni, delle modifiche del valore economico di sostegno, di incentivo, ma li si annunciano al buio, e intanto si dà, per esempio per il fotovoltaico, si danno 3 mesi praticamente per concludere investimenti che in Italia necessitano di anni, 2, 3. Anche per complicazioni burocratiche autorizzative. Certamente. Tutto quindi viene dato per incerto, e addirittura c'è il paradosso che il terzo conto energia è praticamente morto prima di nascere. Certo. Nel senso che gli investimenti che si stanno facendo adesso sono in gran parte quelli che si stanno completando per il secondo conto energia, che si è chiuso a livello di incentivazione a 31/12/2010. Certo. Già si faticherà a collegare entro il 30 giugno del 2011 gli impianti alla rete tutti. Il nuovo muore prima di nascere, e si aspetta il quarto conto energia Aspetta di sapere di che morte poi si morirà, insomma. Gravissimo, ecco. Gravissimo. Allora, vi siete voi rivolti intanto al capo dello Stato denunciando, diciamo, un possibile profilo di incostituzionalità legato proprio a questo elemento di incertezza, ma Napolitano ha firmato il decreto, e ora vi rivolgete all'Europa. Esatto. Non è solo una battaglia legale, giuridica, astratta, ma è la battaglia di un principio. Un settore industriale, un settore economico che dà lavoro a decine di migliaia di persone non può dipendere mese per mese da queste incertezze. Andremo a Bruxelles perché il decreto legislativo, ricordiamo, è il recepimento di una direttiva europea di promozione dello sviluppo in tutta Europa delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Dario Di Santo, dunque, come FIRE, come Federazione Italiana Usi Razionali dell'Energia, voi siete stati anche critici in qualche caso con l'entità di questo incentivo fotovoltaico. Ma di fronte a una scelta di questo tipo, voi cosa ne pensate, a questa scelta del governo? Ma allora, noi siamo stati critici soprattutto su un fatto: abbiamo ritenuto l'incentivo sul fotovoltaico eccessivo in merito alle condizioni di mercato, e in merito soprattutto al fatto che fosse un po' troppo concentrato poi alla fine sui grandi impianti. Ciò premesso, penso che qui ci sia un problema di base che è serio. Il legislatore anzitutto deve dare dei chiari segnali al mercato, perché poi gli incentivi sono uno strumento per favorire delle tecnologie che si ritengono importanti e in genere che hanno dei riflessi su tutto ciò che sono i famosi costi sociali, le esternalità, quindi non sono facilmente conteggiabili in modo automatico dal mercato. E di conseguenza devono essere fatti in modo, da una parte, da ridursi per facilitare lo sviluppo del mercato progressivamente, mano a mano che la tecnologia diventa più economica, certo. Ma dall'altro lineari, cioè all'interno di una strategia, per cui non è ammissibile, consentitemi questo termine, certo, che un legislatore nel giro di pochi mesi prima tira fuori un nuovo conto energia. Quindi contemporaneamente sostanzialmente un decreto salva Alcoa che prolunga gli incentivi del vecchio conto energia, quello troppo generoso, realizzati nel 2010, esatto, mantenendo i più generosi, e poi appunto giro di 8 mesi cambia tutto la bandiera e dice no, adesso ci fermiamo, abbiamo e scherzato. Ci blocchiamo. Esatto, perché chiaramente questo è peggio dell'eccesso di incentivi o dell'assenza di incentivi. Certo, certo. Questo crea solamente incertezza, caos. Si ripercuote sugli investimenti, sulle banche e su tutto ciò che gli stranieri poi che vogliono investire nel paese pensano. Mi permetto di aggiungere che in fondo sulla detrazione fiscale del 55%, quella per appunto gli interventi di efficientamento energetico, non è andata in modo tanto diverso. Su quella avete interessi molto forti, per esempio. È un po' uno stile ultimamente questo qua. Sì, è lo stile dell'incertezza. Sappiamo che il meccanismo delle detrazioni fiscali è stato in qualche modo anche lì ridimensionato e sappiamo anche che non si sa se verrà prolungato poi l'anno successivo, cioè ogni anno in finanziaria si deve discutere se ci sarà o meno questo incentivo. Chiaramente questo crea solamente discontinuità e non favorisce lo sviluppo di un mercato. Grazie Marco Pigni di Aper. Prego, un saluto a tutti voi e restate con noi. Grazie a Dario Di Santo, Fire. Niente, grazie, buona serata. Beh, oggi abbiamo parlato delle criticità su come sfruttare il sole, domani cerchiamo di capire invece come proteggersi, perché arriva l'estate. Buona serata.